Adesso ti metto le mani in bocca, come l'hip hop della giornata. Se la caga ti ammazza! La devi pagarlo a cara, come fanno tutti. Oggi! Che minchia di scuola! Ehi! La minchia di scuola! Cazzo! Cazzo, merda, merda, cazzo! Cazzo! Te ne fotti! Avevo voglia di stare a guardare in giro della classe, avevo voglia di non studiare matematica per tutta una cazzo di ora. C'è gente che parla.